Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay. Capitolo VI. Gay e frustrazione. Questo capitolo è dedicato all'esperienza della frustrazione. Chiarisco subito che intendo parlare propriamente di frustrazione, non di ansia o ancora più genericamente di disagio, cose che peraltro possono anche essere legate alle frustrazioni. L'etimologia stessa del termine frustrazione, derivato dall'avverbio latino frustra, invano, inutilmente, indica chiaramente che la frustrazione è una forma di disagio conseguente al mancato conseguimento di un risultato desiderato o sperato. La frustrazione è uno dei possibili esiti del desiderio. La riduzione del senso di frustrazione può derivare solo dal contenimento del bisogno o del desiderio entro l'ambito del possibile e ancora meglio del probabile. In altri termini, solo una capacità di valutare ex ante la maggiore o minore realizzabilità del proprio desiderio consente di limitare i suoi eventuali esiti frustranti. È qui che entra in gioco la radicale distinzione degli obiettivi in relazione al fatto che la loro realizzazione dipenda o meno soltanto da noi. Chiarisco il discorso con due classici esempi. Il portare a termine gli studi, obiettivo individuale, e il trovare una reciprocità in un rapporto affettivo, obiettivo condiviso. Si tratta di due obiettivi radicalmente diversi. Il portare a termine gli studi dipende solo dall'azione più o meno condizionata del singolo, che può trovare ostacoli oggettivi, ma che è consapevole che il conseguimento dell'obiettivo, un obiettivo individuale, al di là dei condizionamenti esterni, dipende in modo essenziale dal suo impegno e dalle sue capacità. In questo caso la frustrazione è percepita essenzialmente come senso di inadeguatezza. Il trovare una reciprocità in un rapporto affettivo è invece un fatto sostanzialmente connesso ad una relazione interpersonale. Questo significa che il conseguimento dell'obiettivo non dipende unicamente dalla persona che sta puntando su quell'obiettivo, ma anche da un'altra persona che dovrebbe condividere quell'obiettivo, un obiettivo comune. In questo caso la frustrazione è percepita come rifiuto. Non è raro il caso che la frustrazione rifiuto sia vissuta anche come frustrazione inadeguatezza, sulla base dell'individuazione delle cause del rifiuto nella propria inadeguatezza. Mi ha rifiutato perché non sono all'altezza della situazione o perché ho sbagliato qualcosa. Alla base di questi ragionamenti c'è comunque una visione non autenticamente relazionale dei rapporti affettivi, che sono interpretati come una specie di partita a scacchi, in cui, se non si sbagliano le mosse, si arriva comunque a vincere la partita. In questo modo, l'altro è visto come oggetto da conquistare, con una strategia che, se è adeguata, porta necessariamente al risultato. Questo modo di vedere le cose, pur essendo in molti casi del tutto incongruo, appare assolutamente ovvio a chi lo adotta come proprio modello interpretativo, al punto da ottenebrare l'oggettività dei fatti. Vi spiego con un esempio concreto. Un ragazzo gay che si innamora perdutamente di un ragazzo oggettivamente etero è indotto a vedere il suo oggetto d'amore come gay represso e non come etero, e a pensare che con un'opportuna strategia sarà possibile far sì che prenda atto della sua presunta omosessualità repressa. In situazioni del genere, il vivere la frustrazione come inadeguatezza può durare anche anni e si può anche non arrivare mai a vedere le cose come stanno, nemmeno quando l'altro si sposa. È fondamentale rendersi conto che alcune cose, per quanto desiderate profondamente, sono oggettivamente impossibili. Un ragazzo etero non può innamorarsi di un ragazzo gay, qualunque strategia usi il ragazzo gay. La cosa rimarrà comunque impossibile. Bisognerebbe quindi mettere da parte l'idea di essere inadeguati, non abbastanza belli, non abbastanza solari, non abbastanza affidabili, troppo nevrotici, eccetera, eccetera, e rendersi conto che il rifiuto non è un rifiuto della persona in quanto tale, ma una manifestazione della oggettiva impossibilità di condividere gli obiettivi dell'altro. Mi fermo un attimo a riflettere sulla sensazione di essere rifiutati. La sensazione di rifiuto che si prova quando l'altro non condivide il nostro obiettivo è spesso vissuta, in particolare dai ragazzi gay innamorati di ragazzi etero, come un rifiuto non genericamente della persona, ma della persona in quanto gay, piuttosto che come impossibilità di condividere l'obiettivo dell'altro. E questo rende talora più difficile il processo di accettazione dell'omosessualità. Aspettarsi che un ragazzo etero si innamori di un ragazzo gay non ha senso, ma aspettarsi che possa essere amico di un ragazzo gay è invece realistico. Un ragazzo gay in queste situazioni è spesso portato al tutto o nulla. La cosa è anche comprensibile, è un ridimensionamento dell'obiettivo che lo renda un obiettivo condiviso è spesso difficile, perché anche quando un ragazzo gay dovesse accontentarsi di un rapporto di amicizia con il ragazzo etero di cui è innamorato, resterebbe comunque frustrato nel suo vero, anche se irrealistico, obiettivo, che è quello di costruire una storia d'amore condivisa. Comunque, metabolizzare la sensazione di rifiuto di un coinvolgimento affettivo e sessuale da parte di un ragazzo etero per un ragazzo gay è ancora tutto sommato un processo di presa di coscienza della realtà non troppo traumatico, perché si tratta in fondo di difficoltà oggettive e oggettivamente insuperabili. La questione si fa invece molto più delicata quando la sensazione di rifiuto interviene nel rapporto con un altro gay. Qui si tratta di un rifiuto su basi soggettive, che per la persona rifiutata è molto più difficile da accettare ed è molto più frequentemente accompagnato da sensazione di inadeguatezza. Entrano tipicamente in gioco in queste situazioni meccanismi proiettivi, per i quali si proiettano sull'altro le proprie sensazioni e le proprie attese, e non si capisce che l'altro è oggettivamente un altro, con una diversa storia individuale, con altri desideri e con un vissuto del tutto autonomo. In genere, quando un ragazzo gay si innamora, la prima e assillante domanda che si pone concerne l'orientamento sessuale dell'altro. Se l'altro non è gay, c'è poco da fare, ma se l'altro è gay, sembra che il problema sia risolto e che la reciprocità non possa non esserci. È il tipico teorema gay più gay uguale amore, dietro il quale si nascondono meccanismi proiettivi molto forti che ci fanno vedere l'altro in quanto gay come un individuo identico a noi. Non bisogna mai dimenticare che i gay non costituiscono una categoria omogenea. Ci sono gay di qualsiasi orientamento politico, di qualsiasi livello sociale, di qualsiasi credo religioso o senza alcun credo religioso. Ci sono gay che sono ottime persone e ci sono gay che non lo sono affatto, esattamente come avviene nella popolazione generale. I gay non costituiscono una specie di Eden in cui tutto è governato dai buoni sentimenti, né una specie di inferno in cui tutto è dominato dall'interesse individuale e dai più bassi istinti. I gay sono profondamente diversi l'uno dall'altro, anche perché hanno alle spalle delle storie individuali profondamente diverse. Quindi non è affatto scontato che un gay possa sentirsi a suo agio con un altro gay solo perché entrambi sono gay. E a maggior ragione, non solo non è scontato, ma non è nemmeno probabile che due gay possano provare un feeling affettivo reciproco solo perché sono entrambi gay. Esattamente come un etero non si innamora di una donna qualunque solo per il fatto che è una donna. I meccanismi proiettivi che tendono a proiettare sull'altro in quanto gay i nostri sentimenti e i nostri modi di ragionare possono allontanare da una valutazione oggettiva dei fatti e possono creare aspettative del tutto irrealistiche. Che cosa può metterci al riparo da questi meccanismi proiettivi che ci portano spesso alla frustrazione? La risposta è quasi ovvia. Si tratta della socializzazione. Più un ragazzo ha una vita sociale e affettiva ricca, parlo soprattutto di amicizie, più ha esperienza diretta della variabilità dei soggetti con i quali interagisce e meno è portato ai meccanismi proiettivi. Faccio un esempio concreto. Un ragazzo gay che mi scriveva la sua prima imbarazzatissima mail mi diceva: «Non ho mai incontrato un ragazzo gay». Per lui la categoria ragazzo gay era ancora unitaria e, non avendo riferimenti precisi, la completava proiettivamente vedendo nel ragazzo gay un altro se stesso. Quello stesso ragazzo, dopo un po' di giorni trascorsi con serate passate in chat con altri ragazzi gay, diceva: "Mi sono reso conto che con tanti ragazzi riesco ad andare d'accordo, ma con qualcuno è come se ci fosse una distanza più grande. Pure se si tratta sempre di bravissimi ragazzi, hanno un altro modo di ragionare, però con qualcuno mi trovo veramente bene." Questi discorsi sono il tipico segno di una progressiva socializzazione e quindi della progressiva diminuzione della tendenza proiettiva. L'altro elemento chiave, oltre alla socializzazione, per prevenire i sensi di frustrazione è l'esperienza. Il primo rifiuto può essere veramente traumatico, i successivi lo sono certamente di meno. In sostanza, la nostra psiche considera i primi traumi da rifiuto come una specie di vaccinazione che attenua la virulenza dei successivi. Il trauma da rifiuto porta spesso a comportamenti che appaiono come tentativi di superare il rifiuto, ossia come delle insistenti richieste di conferme da parte dell'altro, che ovviamente non fanno che rimarcare la sensazione di rifiuto. Tutto questo, che appare come un comportamento inadeguato e disfunzionale, ha invece un senso preciso e serve alla definizione della questione, cioè a mettere un confine, un limite, ossia al superamento definitivo, al suo inquadramento. Va sottolineato che chi dopo un primo rifiuto si ostina a chiedere ulteriori conferme si giudica perciò stesso inadeguato, ma è in realtà alla ricerca di un meccanismo di frattura che crei le condizioni per passare oltre. In questo senso, i rifiuti non chiari, impliciti, detti e non detti, non fanno altro che evitare questo momento di frattura e impedire di fatto la definizione della questione, che resta perennemente irrisolta. Al di là della percezione soggettiva, le vere situazioni di disagio si concretizzano dove permane uno stato di costante incertezza e il tempo passa, senza che ci si possa rendere conto della presenza o dell'assenza di una vera dimensione simmetrica in un rapporto affettivo. Vorrei aggiungere che le frustrazioni in campo affettivo sono spesso complicate dalla presenza di altre frustrazioni, questa volta di matrice strettamente individuale, connesse al mancato conseguimento di obiettivi legati alla ricerca e alla stabilizzazione del lavoro o al successo degli studi, specialmente quando gli insuccessi sono percepiti come derivati dalla mancanza di impegno individuale nella soluzione di un problema, che questo sì sarebbe realmente risolubile. In genere le frustrazioni dovute a sostanziale disimpegno a livello individuale vengono mascherate da frustrazioni nei rapporti affettivi o di coppia che sono ingigantite per farne il nucleo del proprio stato di disagio. In questo caso si motivano gli insuccessi nella vita affettiva con delle incapacità primarie, originarie, che è impossibile superare e che incombono quasi come un destino ineluttabile. È il momento del "tanto io sono così, sono fatto male, non ci posso fare niente". Le singole frustrazioni, non riportate alle loro cause ma viste come espressione di qualcosa di incontrollabile, innescano idee con contenuti vagamente depressivi, che rischiano di pervadere la vita a vari livelli e di mettere in moto circoli viziosi dai quali è difficile uscire. L'esperienza insegna che i problemi si affrontano e si risolvono una alla volta. La cosa più sensata è evitare di dare al proprio cervello modo di girare a vuoto, sempre sui soliti contenuti, scegliendo invece obiettivi concreti, a breve scadenza, da realizzare concentrandosi seriamente su di essi. L'antidoto alla frustrazione e il modo per spezzare una serie di frustrazioni che rischia di innescare un meccanismo depressivo è conseguire i primi successi, mettere le basi per guardare al concreto e a quegli obiettivi che sono realmente conseguibili a breve con uno sforzo di impegno individuale, come fare un esame, mandare un curriculum per la ricerca di un lavoro, senza lasciare che il tempo scorra quando ci sono problemi da affrontare subito. In questa prospettiva, l'essere gay può anche portare a delle frustrazioni in campo affettivo difficili da accettare, ma piuttosto che avvitarsi su se stessi nella ricerca di che cosa si è sbagliato, ha senso concentrarsi su obiettivi individuali e concreti, il cui conseguimento può portare ad un netto miglioramento dell'autostima e quindi anche della capacità di affrontare le frustrazioni della vita di coppia con maggiore concretezza e serenità. Come Concludo dicendo che le frustrazioni sono un elemento ineliminabile nella vita di chiunque e che pertanto è necessario imparare a conviverci, ricordandosi sempre che come ci è capitato di essere rifiutati, ci sarà certamente capitato e ci capiterà, più o meno coscientemente, di rifiutare altre persone o altre forme di coinvolgimento. Tutto questo non ha nulla di patologico, ma fa parte della normale amministrazione della vita affettiva. Questa è la voce del progetto, una voce libera e